Quasi quasi mi taglio i capelli, ma è solo un modo per dimenticare. E posso farlo anche da solo, perché ho già visto che lo riesco a fare. E mi posso anche abituare a una casa sotto il livello stradale. E ho capito che mi abituo a tutto, anche alle buste d'insalata, chiaramente quella già lavata. E mi posso accontentare senza accorgermi o pensare troppo ai bei tempi andati via. Ma quale malinconia, nessuna nostalgia. Se io potessi scegliere, vorrei solo andar via. Da questo giorno tra i giorni, da questa strada che va tra andate e ritorni, da quest'idea che si è fatto tardi, da questa normalità tra il mio futuro e i ricordi, da questo giorno tra i giorni, da questo posto che ormai sembra soltanto dintorni, da questa vita che ha già fatto tardi, da questa normalità tra il mio futuro e i ricordi, tra il mio futuro e i ricordi. Nell'armadio trovo la camicia, quella delle sere immaginate, ma l'estate è sempre già finita e le sere neanche cominciate. Sono chiusi i balconi e le terrazze di certe serenate. Della gente fuori nella via canta forte l'italianità, che mi sembra un sentimento stupido o è l'invidia verso l'allegria. Provo a scrivere una canzone che dovrebbe essere facile. In questo giorno tra i giorni, in questa strada che va tra andate e ritorni, in quest'idea che si è già fatto tardi, in questa pubblicità tra il mio futuro e i ricordi. In questo giorno tra i giorni, in questo posto che ormai sembra soltanto i dintorni, di questa vita che ha già fatto tardi, di questa normalità tra il mio futuro e i ricordi. Giorno tra i giorni, in questo giorno tra i giorni. Quasi quasi mi taglio i capelli,